24 mattino di Alessandro Milan. 7:20 minuti, buongiorno, eccoci qui cari ascoltatori in diretta su Radio 24 per 24 mattino fino alle 9. Il nostro Peter Bescapè è lì pronto in regia. E siamo anche su Twitter @AlinoMilan @BescapePeter. Ragazzi, qua però bisognerebbe scriverlo, trovare il modo per metterlo in sovraimpressione, perché come si fa? Quello si ritrova. @24mattino anche per la trasmissione. Siamo su Facebook e siamo pronti a ospitare alle 8:20 Roberto Formigoni, il governatore della Lombardia, e parlare poi invece della strage di Tolosa, con l'assedio a un ragazzo 24 anni che si definisce membro di Al-Qaeda, che dice di aver voluto vendicare le vittime, i bambini palestinesi, ha compiuto questo massacro uccidendo prima dei paracadutisti francesi e poi il terribile omicidio con anche bambini ebrei uccisi alla scuola ebraica. Blitz ancora in corso, è asserragliato nell'appartamento dove vive. Alle 8:30 parleremo di la minaccia terroristica, Al-Qaeda che torna come spauracchio, come terrore. Lo faremo con Magdi Allam e con un imam italiano, Yahya Pallavicini. Ora i giornali in edicola. Giovedì 22 marzo, giornali che sono tutti concentrati sulla questione della riforma del mercato del lavoro. Dopo l'accordo o non accordo, il verbale di accordo e le polemiche, i titoli intanto: il Sole 24 Ore, fondo per gli over 58 che perdono il lavoro; per il Corriere della Sera, i no del PD, la CGIL in piazza; Repubblica, PD e CGIL a Monti, fermatevi; La Stampa, lavoro dal PD stop a Monti; il Messaggero, no all'articolo 18 per gli statali; Libero, gli unici licenziati, gli imprenditori; il Fatto Quotidiano, siamo tutti licenziati; il Giornale, panico tra gli statali; l'Unità, non ci stiamo, e c'è la foto di due operai; il Manifesto, la giusta causa, c'è la foto di una manifestazione della CGIL; Avvenire, lavoro, slanci e proteste. Insomma, vedete tutto su questo tema. Io però, come dire, già ansimo di ansia e di sconforto nel leggere ciò che La Stampa propone a pagina 24 e 25, due pagine che vi segnalo, imprescindibili oggi, scritte da Francesco Grignetti, l'altra casta, ecco le toghe multistipendio. Cari ascoltatori, per la prima volta, con l'era della trasparenza, grazie a un emendamento del deputato del PD Roberto Giachetti, che ha chiesto di fissare paletti precisi sugli incarichi fuori ruolo, il governo ha fatto sapere gli stipendi, o meglio i doppi o tripli stipendi in qualche caso, dei magistrati italiani. E allora, tante belle storie, si va dal rigorosissimo Giuseppe Esposito, magistrato del TAR di Napoli, che partecipa a incontri con le scolaresche di Vico Equense e devolve gli 800 euro di compenso alla biblioteca scolastica, al caso ben diverso del consigliere di Stato Gabriele Carlotti, che oltre lo stipendio regolare riceve dall'autorità per l'energia 100.000 euro l'anno in quanto responsabile della direzione affari giuridici. Il discorso si fa complicato quando il ministro Filippo Patroni Griffi consegna gli emolumenti di 516 giudici della magistratura amministrativa, 456 della contabile e 360 dell'avvocatura di Stato, perché è interessante, scrive Grignetti, la dinamica salariale di questi ultimi. Incassano stipendi per 54 milioni di euro, decurtati di 1.053.000 per le misure di solidarietà, più un'indennità particolare. Ah, l'indennità particolare. Sono andato, nella mia profonda ignoranza, sulla Treccani, treccani.it. Si chiama, qua l'accento io devo, propina o propina, sembra una vitamina, no? Dal verbo propinare, dal latino medievale, regalia, dono. La propina, chiamiamola propina, magari sbaglierò, ma la chiamo propina. Per fare un caso esplicativo, Sua Eccellenza Filippo Ignazio Caramazza gode di un trattamento fondamentale di 289.000 euro l'anno, a cui va aggiunto la propina, regalia, dono, ricordate, regalia, dono, di 324.000 euro perché ha un incarico extragiudiziale in quanto membro della commissione di accesso ai documenti amministrativi. Pierluigi Di Palma, vice segretario generale della difesa, giudice dell'Avvocatura di Stato che incassa 179.000 euro, ha una propina di 100, regalia, dono, di 186.000 euro e ha ottenuto nel 2011 anche 70.000 euro come consulente giuridico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Poi, i giudici amministrativi, il più noto è il ministro stesso Filippo Patroni Griffi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, in quanto ministro della pubblica amministrazione è colui che ha portato questi dati in Parlamento, doverosamente ha inserito dunque anche i dati che lo riguardano. Patroni Griffi quindi comunica di essere fuori ruolo dal momento della nomina nell'esecutivo, da quella data guadagna 17.000 euro al mese in quanto ministro. Poi una raffica di doppi incarichi, Michele Buonauro cumula l'incarico di giudice del TAR con la consulenza giuridica all'autorità per le comunicazioni e per 2 giorni a settimana di impegno incassa 35.000 euro lordi. Paolo Carpentieri 60.000 euro lordi come capo dell'ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali. Giuseppe Caruso prende 58.000 lordi. 58.000 euro lordi in quanto membro della commissione di valutazione dell'impatto ambientale al Ministero dell'Ambiente e così via, insomma tante storie e la propina, la regalia, il dono. Bene, passiamo a Repubblica. In prima pagina vi voglio segnalare questo articolo di Riccardo Luna dal titolo "Le lauree non saranno più tutte uguali". Stamattina la campanella suonerà un po' prima, scrive Luna. Alle 8 in punto il ministro dell'istruzione Francesco Profumo sarà infatti alla sede del ministero in diretta televisiva con il TG1, premerà il bottone per dare il via alla più importante e drammatica rivoluzionaria consultazione popolare che si poteva immaginare, quella sul valore legale del titolo di studio. Un istante dopo sul sito web del Ministero compariranno 15 domande alle quali tutti sono chiamati a rispondere perché tutti sono in qualche modo interessati al tema. Il punto è: quanto valgono davvero una laurea o un diploma? Sono tutte uguali a prescindere dall'ateneo, dalla scuola di dove si sono conseguite o dal tempo impiegato oppure no? Oppure quella presa in un'istituzione migliore vale di più anche se il voto finale è più basso? E ancora, possono comportare avanzamenti di carriera automatici, indipendentemente dalla qualità della didattica? Per sintetizzare in modo brutale, vale più un bellissimo pezzo di carta o quello che uno sa fare davvero? Chi è per l'abolizione del valore legale può citare tra i tanti esempi Steve Jobs, che ha creato la Apple e non era neanche laureato, ma al contrario, per molte professioni la laurea o il diploma appaiono socialmente un requisito essenziale. Chi si farebbe estrarre un molare da un dentista senza laurea? Insomma, questo è ciò che farà il Ministero, una consultazione popolare con 15 domande, la prima è: come giudicate la necessità di possedere uno specifico titolo di studio per poter esercitare una determinata professione? Oppure ritenete che vi siano professioni per le quali il titolo di studio oggi richiesto sia eccessivo rispetto al tipo di prestazione? Ritenete che vi siano concorsi per i quali i titoli di studio oggi richiesti siano eccessivi rispetto ai tipi di funzione che si è chiamati a svolgere? Ecco, queste sono 3 delle 15 domande che da oggi sul sito del Ministero dell'Università e del Ministero dell'Istruzione compariranno a partire dalle 8 per una grande consultazione popolare che il ministro Profumo ha deciso di fare, sentire il parere di tutti i cittadini per capire cosa ne pensano sul tema valore legale del titolo di studio. 24 mattino. Siamo qui allora a 7:35 minuti, ma molti ci scrivono di questa la propina, che sembra una vitamina invece, regalia, dono, che ricevono i magistrati, quelli che hanno incarichi extragiudiziali. Oggi la stampa li mette tutti in elenco. Ci scrivono molti a dire propina in spagnolo vuol dire mancia. Ah. o per uso così estensivo, mazzetta, per carità, in spagnolo, qui però sarebbe bello per tutti noi avere una propina nello stipendio, lo stipendio e poi la propina a fianco, no? Un dono, una regalia per l'incarico aggiuntivo che uno fa e che a volte supera in alcune cifre anche quella dello stipendio, no? Non so, 200.000 euro di stipendio e 300.000 di propina. Allora, l'articolo 18 è il tema che più viene trattato dai giornali, anche se l'articolo 18 è uno degli aspetti della riforma del mercato del lavoro, però l'articolo 18 torna prepotentemente alla ribalta con le discussioni, con le polemiche. In realtà, appunto, sul Sole 24 Ore, oggi a pagina 3, Davide Colombo e Giorgio Pogliotti ricapitolano tutte quelle che sono le novità più importanti previste da questa riforma del mercato del lavoro che sta facendo passi sempre più concreti verso un sì definitivo, anche se ovviamente ci sono tante spaccature anche tra le parti sociali. Non è solo dunque la questione dei licenziamenti, dunque l'articolo 18, oggi il Sole si concentra per esempio su questa novità prevista, l'indennità più lunga per gli over 58, il fondo per la mobilità, scrivono Colombo e Pogliotti, una volta esaurita la fase di transizione sarà destinato ai lavoratori anziani, quando la riforma degli ammortizzatori entrerà a regime nel 2017, il fondo da una dotazione di circa 700 milioni servirà come strumento di sostegno al reddito dei lavoratori over 58-60 anni in caso di licenziamento o verrà utilizzato per integrare la durata dell'assicurazione sociale per l'impiego. Questa è una delle novità contenute nel testo su cui i tecnici del ministro Fornero stanno lavorando da ieri, un documento arricchito dalle osservazioni delle parti sociali e che serviranno come integrazioni da aggiungere alla versione definitiva da portare questo pomeriggio al tavolo negoziale. Ma certo, questa è una novità che ha ragione, ha torto, passa in secondo piano. Ripeto, se vedete oggi i giornali, il dibattito è tutto, quasi tutto concentrato sulle polemiche legate alla nuova normativa sull'articolo 18, dunque le possibilità di licenziamenti sono riepilogate dal Sole. Intanto le novità previste sono che per i licenziamenti economici al lavoratore spetterà un indennizzo fino a 27 mensilità. Per quelli disciplinari invece il giudice dovrà decidere tra reintegro o indennizzo, confermato invece per tutti che i licenziamenti discriminatori saranno sanzionati con il reintegro obbligatorio disposto dal giudice. Si applica questo anche agli statali? Dunque ai 3 milioni e rotti dipendenti pubblici? Questa è la domanda chiave che per tutto ieri ha creato un po' di scompiglio. Sì, forse, il Corriere riepiloga pagina 2 così la giornata, prima sì, poi forse, alla fine no, al termine di una giornata in altalena il Ministero del Lavoro guidato da Elsa Fornero ha sciolto i dubbi circa l'applicazione delle modifiche all'articolo 18, non riguarderanno gli statali, non a caso ha detto il Fornero. Il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi non partecipa al tavolo. In realtà c'è stato un giallo per tutta la giornata. Articolo 18 per gli statali, poi il governo smentisce. C'è il direttore generale di Confindustria, Galli, che in un'intervista alla stampa oggi dice ci sono alcuni aspetti che non ci piacciono. Uno degli aspetti è proprio questo, andrebbe senza dubbio applicato anche agli statali. L'intervista la trovate a pagina 9, intervistato da Alessandro Barbera. Ci sono delle nuove regole che devono e dovrebbero, e mi sembra assolutamente necessario che si debbano applicare anche agli statali. E poi Galli fa anche mette in luce quelli che sono gli aspetti critici secondo Confindustria di queste novità. Sta di fatto che l'aspetto, come dicevamo ieri, che può creare più problemi è dell'articolo 18 è quello legato al Partito Democratico. Secondo un retroscena della stampa, Paolo Baroni a pagina 3, la telefonata più tesa del premier Mario Monti è stata proprio con il segretario Bersani. Una telefonata difficile, questo è il titolo. La giornata di Monti è iniziata con una telefonata molto difficile, nell'articolo diventa molto difficile, con Pierluigi Bersani. Del resto, quale fosse il clima dei rapporti tra il premier e il secondo partito che appoggia il governo lo si era capito martedì sera. mentre da Palazzo Chigi uscivano poco alla volta le notizie sull'andamento del confronto con le parti sociali. E ieri chi ha origliato o sentito in transatlantica a Montecitorio Bersani lo ha trovato furibondo, con Bersani che ha detto questa frase: se devo concludere la vita consentendo la monetizzazione del lavoro non lo faccio, per me è una roba inconcepibile. Tra l'altro ieri Bersani a Porta ha confermato, dice sì, hanno origliato questa frase, ma di fatto ha confermato, dice è vero, l'ho detta questa frase. E sta di fatto che la situazione è questa, c'è un... cosa succede ora? C'è Mario Monti e il governo che sono tentati addirittura dal decreto legge, cioè questa riforma ora come procederà? Si può fare un decreto legge, che è la formulazione più da, come dire, scontro politico all'interno del Parlamento, perché uno fa un decreto legge che poi deve essere convertito in legge, e poi magari uno pone addirittura la fiducia e quindi non ci possono essere modifiche. E sarà questa la strategia, quella del braccio di ferro? Beh, secondo Repubblica è così, il premier tentato dal decreto e nel Partito Democratico cresce il gelo. Questa è la retroscena di Francesco Bei e Goffredo De Marchis, che inizia in prima pagina: l'ho detto, la riforma non si cambia. Questa è la teoria e ribadita ieri da Mario Monti. Sono tutti retroscena politici, torna un po' il retroscena politico su questa vicenda. Stasera Monti si vedrà con il capo dello Stato Napolitano al termine degli incontri tra governo e sindacati, e Monti, scrive Repubblica, avrebbe confidato anche a un amico: sono stato io a suggerire che nessuno firmasse l'accordo proprio per non far risaltare più del dovuto l'isolamento della CGIL, ma invece la Camusso si è messa da sola in un angolo. Certo, scrive Repubblica, saranno giorni di scontro e anche di divisioni. Il Partito Democratico si è già diviso su questo, ci sono varie linee. D'Alema, per esempio, ha definito il testo pericoloso e confuso, mentre Enrico Letta, in un'intervista oggi, credo sul Corriere della Sera, dice l'accordo va bene, così anche Casini dell'UDC in un'intervista dice l'accordo è un accordo che va bene, in un'intervista a Repubblica l'accordo va bene, è un qualcosa di moderno e ora i falchi tornino in gabbia. Bella questa immagine usata da Pier Ferdinando e Casini, no? I falchi tornino in gabbia. Certo che anche il Manifesto fa sapere a pagina 3: Bersani è sotto assedio. E all'interno del Partito Democratico, appunto, certo, questa è la riforma che più fa discutere. Poi vedete come la possono porre due giornali orientati politicamente certamente in modo diverso. Da una parte il Fatto Quotidiano mette in prima pagina questo titolo: siamo tutti licenziati, operai, impiegati, statali, la mannaia del nuovo articolo 18 targato Monti Fornero consente alle aziende di cacciare qualunque lavoratore al prezzo di pochi euro. E Fornero è definita a pagina 2 più a destra di B, cioè di Berlusconi. Dall'altra parte, Libero, gli unici licenziati sono gli imprenditori, e Libero mette a pagina 3 questo titolo: quante balle, non cambia nulla. Ecco, vedete come la stessa riforma può essere analizzata in modo diverso. Che dire, in questo bisogna, è una domanda, si deve spendere tante parole per la vicenda di Liberto, che ex ministro della giustizia, ora segretario del Partito dei Comunisti, ripreso insieme a una manifestante che sfoggiava con un sorriso serafico questa maglietta con la scritta La Fornero al cimitero, testuale, a caratteri cubitali. È stato ripreso. Ma insomma, oggi c'è bufera su Diliberto. Ieri è intervenuta la Zanzara dicendo non sapevo il contenuto di quella maglietta, mi scuso. Fornero si è detta sdegnata da questa foto che potete vedere sui giornali. Il buongiorno di Massimo Gramellini oggi sulla stampa, il titolo è A loro insaputa, il caro leader Olivero Di Liberto si è fatto fotografare con un'ammiratrice sulla cui maglietta stava scritto Fornero al cimitero, ma lui non se n'era accorto, ha detto che gli dispiace, avrebbe potuto aggiungere che quello slogan macabro era una vergogna. Però non la sarei sentita di infierire contro l'indossatrice. Era già troppo occupato a crogiolarsi nel suo dispiacere. L'ultima vocazione dei politici, infatti, consiste nel giocare d'anticipo e definirsi cretini da soli. Il sindaco barese Emiliano, quello che riceveva pesci vivi in dono dagli affaristi e teneva le seppioline allievi di molfetta nella vasca da bagno, prima ha dato la colpa della sua disinvoltura niente meno che al ventennio berlusconiano. Ma Silvio nella vasca avrebbe almeno preteso delle allieve. E poi ha concluso, datemi del fesso, non del ladro, se ci tiene tanto. Anche Rutelli, pur di salvarsi la reputazione, preferisce passare per sempliciotto che si è fatto soffiare sotto il naso 20 milioni di euro dal suo tesoriere, come se in politica la dabbenaggine fosse meno grave della disonestà. E Podestà, il presidente della provincia di Milano, che ieri ha scritto un messaggio contro Pisapia su Twitter e oggi ha detto di aver cliccato il pulsante del telefonino per sbaglio? Tutti allievi di Mastro Scajola, vivono a loro insaputa e lo ribadiscono con orgoglio, illudendosi che noi, come è accaduto per troppi anni, continuiamo a votarli a nostra insaputa. Questo è Massimo Gramellini. Allora, qual è la situazione a Tolosa? La situazione a Tolosa, in Francia, è che c'è ancora il blitz in corso. Sono passate ormai 24 ore. Anche di più, e questo 24enne sospettato numero uno di avere compiuto prima l'uccisione di vari paracadutisti francesi e poi l'orrore della strage alla scuola ebraica di Tolosa, tre bambini e un adulto uccisi a sangue freddo, e beh, ancora lì asserragliato nella sua casa, il lungo assedio al killer dei bambini. Quindi su questo i giornali, diciamo dal punto di vista della cronaca, sono superati dalle notizie che potete ascoltare in diretta su Radio 24. Noi ne parleremo alle 8:30 perché in realtà questo, oltre all'aspetto di cronaca, comporta anche tutta un'analisi di quello che sta succedendo, perché questa persona è affiliata, così si dice, ad Al Qaeda, è scappata anni fa da una prigione di Kandahar in Afghanistan, è un cane sciolto oppure c'è il timore che possano che possa far parte di un gruppo più organizzato legato al terrorismo di matrice islamica. Così stiamo armando chi ci vuole eliminare, questo è il titolo di un commento di Magdi Cristiano Allam, europarlamentare, che sarà nostro ospite alle 8:30, che potete leggere a pagina 19 del giornale. Il titolo, l'articolo inizia così: sveglia Europa, siamo diventati terra di conquista degli integralisti, estremisti e terroristi islamici con cittadinanza europea, non solo senza rendercene conto, ma addirittura aiutandoli, giustificandoli e perfino condividendo la loro diabolica strategia volta a ridurci ad adoratori del loro Allah. Esordio pacato di questo articolo di Magdi Allam. Vi segnalo anche un'intervista a Olivier Roy, che è uno dei massimi studiosi politologi francesi, tra i massimi esperti mondiali dell'Islam. È stato intervistato da Maria Serena Natale per il Corriere della Sera, pagina 17. Dice Roy: non credo che si possa affermare che siamo davanti a una radicalizzazione dell'Islam francese, parlerei di radicalizzazione individuale, non conosciamo ancora i dettagli della storia personale di quest'uomo, ma mi sembra un lupo solitario, ben inserito nel contesto d'appartenenza e difficile da intercettare, uno che non ha alle spalle una storia di povertà o disagio. Senza destare sospetti ha coltivato il mito dell'eroe che persegue un nuovo ordine e lotta in solitudine. Vi segnalo anche il commento in prima pagina del manifesto di Ali Rashid, perché quest'uomo ha detto: ho vendicato così i bambini palestinesi. Ali Rashid scrive, dal titolo Inventare un nemico, con scellerata leggerezza si tentano oggi di attribuire a una causa i crimini efferati, sia i vinti e i disperati che gli onnipotenti e gli arroganti hanno bisogno di una causa, una ideologia, un dio per giustificare i loro crimini. Così in tante forme e intensità variabili si sono eretti sostenitori o accusatori della causa palestinese coloro che per la loro frustrazione o cinico opportunismo si sostituiscono ai palestinesi stessi e agiscono nel loro nome. per attuare quell'atto criminale della strage di Tolosa nel modo freddo e calcolato in cui è stato portato a termine, è indispensabile avere quella cultura dell'annientamento e della morte proprio di una mente malata ogni volta che inventa un nemico. Per farlo le cause sono opzionali. Le tragiche condizioni di vita dei bambini, degli adulti palestinesi vittime della barbara occupazione israeliana, così scrive Ali Rashid, non autorizzano a nessun criminale, singolo, gruppo che sia, di versare altro sangue innocente. Sta di fatto che di questo ne parleremo alle 8.30, ci sarebbe ancora molto da segnalare come rassegna stampa, ma come fare? È tempo di chiudere, di dare spazio a GR24, solo da dire che trovate su tutti i giornali eccellenze e disastri, ecco la classifica degli ospedali, sul Corriere della Sera pagina 31, ma anche sul giornale Chi cura peggio, la verità sugli ospedali, o sulla stampa pagina 27, Buoni e cattivi, la prima pagella degli ospedali. È arrivata, sponsorizzata dal Ministero, che dice: per carità, non dite che è una pagella. Titoli di tutti i giornali, la pagella degli ospedali italiani. 24 mattino. Siamo qui ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22. Voglio salutare il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno. Senta, mi lasci subito sdrammatizzare. C'ha l'insulto facile oggi o possiamo stare tranquilli? Ma vede, non è che io insulto, io vengo insultato. L'altro giorno sono stato ripetutamente aggredito in aula da un signore che diceva: Formigoni non ha mai lavorato, ha sempre vissuto a sbaffo, ha sempre vissuto di politica. In questi tempi di antipolitica, ora anche far politica è un lavoro, sia chiaro, ma comunque in questi tempi di antipolitica uno che non abbia mai lavorato in vita sua, che non abbia una sua professione, è ritenuto un pario, un minus habens, quindi è un grave insulto. Al quale ho reagito dicendo: va bene, se vuole il consigliere Zamponi mi correggo, non le do del pirla, le do del bugiardo. Bugiardo, ecco. Lei lo è perché ha detto falsità. Dopodiché, un po' divertendomi, ho ricordato due sentenze del Tribunale di Milano secondo cui a Milano dare del pirla non è reato, addirittura non è reato darlo a un pubblico ufficiale. Si immagina, ci sono due sentenze: uno aveva dato del pirla ad un vigile urbano che gli aveva dato una contravvenzione, un altro erano due ragazzi ad un insegnante, il tribunale ha sanzionato, che è un termine scherzoso ormai entrato in uso normale. Però insomma, sì, effettivamente pirla a Milano, per chi non è di Milano, pirla, però fa un po' specie, no? Oggi questo capogruppo di Italia dei Valori su Repubblica dice: no, è lui che mi deve le scuse, cioè il gioco a rimpiattino di chi si sente insultato. Ma per carità, non mi soffermo su questo, non mi interessa, l'episodio è chiuso, però ci tengo a precisare che l'aggredito sono io, la vittima sono io, non il viceversa come i giornali hanno tentato di descrivere. L'aggredito sono io, ho risposto con un termine o con un altro, scelga lui quello che preferisce, forse bugiardo è meno grave di pirla, va bene, si tenga il bugiardo. Bugiardo è perché, ripeto, ha detto che avrei vissuto sempre soltanto di politica, mentre ho fatto diversi lavori, tutti lavori dipendenti, insegnante, assistente universitario, giornalista, ricercatore. Senta, venendo alle cose più serie, lei ha ribadito non mi dimetto e ha respinto al mittente tutte le accuse, però insomma si fa la conta dei consiglieri che hanno problemi con i guai giudiziari, 4 esponenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale che hanno problemi con la giustizia a vario titolo, nessuno condannato per carità, però lei perché tiene duro così dicendo non c'entro nulla? Ma proprio sulla base del diritto, innanzitutto perché è un avviso di garanzia, non è una condanna per nessuno e qui non abbiamo neanche un rinvio a giudizio. In secondo luogo perché sono accusate delle persone, non è minimamente accusato l'operato della Giunta. Io sono responsabile dell'operato della Giunta, non c'è un solo atto di tutti questi anni che la Giunta abbia fatto, guardi che noi assumiamo decine e decine di delibere ogni settimana, che sia sottoposto in dubbio, sia lavorato in dubbio, esaminato, sono convinto che è esaminato con il microscopio, ma appunto pur esaminandolo con il microscopio non hanno trovato una sola irregolarità nei miei atti di governo, così come a me non viene contestato nulla. Quindi dobbiamo distinguere, siamo la patria del diritto, lo eravamo una volta. Le responsabilità sono personali, l'organo di governo di Regione Lombardia, il presidente di Regione Lombardia, non è sottoposto a nessuna attenzione da parte della magistratura. Però gli assessori sono assimilabili a dei collaboratori, voglio dire, sono persone di fiducia. Guardi, l'unico assessore è Romano La Russa per questa vicenda dei 5.000 euro di santini di una persona che fra l'altro era candidata con lui in lista, quindi ha fatto un santino a doppia foto suo e di La Russa, l'ha pagato lui invece di farlo pagare La Russa. Stabilirà la magistratura se c'è un'irregolarità, però anche qui non è un atto della giunta, non è un atto che Romano La Russa, se sarà dimostrato che veramente lo ha compiuto in quanto persona. Mi permetta di aggiungere un elemento: chi urla, chi sbraita perché noi dovremmo dimetterci, è quello stesso Partito Democratico, è la sinistra, che ha un presidente di regione indagato come Vasco Errani. Forse Vasco Errani si dimette? No, ma fa bene a non dimettersi, perché è soltanto un'ipotesi accusatoria. C'è Vendola, c'è il sindaco Emiliano, ci sono tanti altri personaggi di sinistra, di vertice delle amministrazioni di sinistra. La sinistra, ipocrita come sempre, sbraita perché dovremmo dimetterci noi che non abbiamo nessun indagato a nostro carico, e invece i suoi compagni non devono dimettersi. La solita tecnica delle due pesi e due misure. Ma neanche, che ne so, visto che anche se non è del suo partito, il presidente del consiglio Boni, secondo lei dove? Cioè la gente chiede degli atti anche forse di maggiore moralità, le legge anche lei, appunto, le inchieste sulle ipotesi di corruzione della politica, cioè facciano un passo indietro qualcuno, no? Allora, certo, voglio dire, questo attiene alla sensibilità personale, alle responsabilità personali. Io alla gente voglio dire che in tutti questi anni ho reso molto più complicata la vita ai presunti corrotti e ai presunti corruttori. Cioè, all'interno di Regione Lombardia abbiamo messo in atto una serie di comitati di controllo, di controlli incrociati, ho chiamato un magistrato come Grechi a fare il mio delegato alla trasparenza. Tutto questo ci ha permesso appunto di fare in modo che gli atti di giunta fossero controllati, dopodiché io non posso inseguire i comportamenti personali dei singoli, non ho i poteri della magistratura di investigazione, di intercettazione, non posso pedinare, non posso escludere che nella vita privata, perché ma se lei fosse Boni, cioè si sentirebbe in dovere di fare un passo indietro? Cioè se capitasse a lei un'inchiesta come quella Boni di presunte tangenti per il partito? Allora, il quadro che emerge è grave, però torno a dire, di fronte ad un Presidente del Consiglio che dice, vi giuro colleghi, perché ce l'ha scritto, l'ha messo nero su bianco, poi l'ha ripetuto in aula, io non c'entro nulla, mi fido della magistratura, se la magistratura giudicare, torno a dire, un'ipotesi di reato non è un reato comprovato. Questo sta parlando l'accusa, sta parlando il PM che fa il suo mestiere e dice a Boni c'è un'indagine in corso perché sei accusato di aver fatto queste cose, quindi parla l'accusa, dopodiché parlerà la difesa e dopodiché ci sarà la magistratura giudicante che giudicherà. Presidente, almeno il primo grado lo vogliamo aspettare, però guardi, se no qui avviene la decimazione sulla base soltanto di sospetti. Se io domani andassi ad un procuratore e dicessi lei questo giornalista mi ha aggredito per strada e portassi due o tre amici che si vogliono, è vero, quel pubblico ministero è costretto ad aprire un'indagine nei suoi confronti. Senta, a mandarle un avviso di garanzia. Ma è chiaro. Presidente, ieri c'era una commemorazione da parte dell'Osservatorio regionale sulla legalità, in cui c'è un giallo, perché si commemorava tra gli altri anche... C'è un giallo costruito ad arte, come sempre. No, vabbè, Giorgio Ambrosoli. Giorgio Ambrosoli. Che mi risulta non era stato invitato allora alla commemorazione delle vittime di Mafia. Però lui dice di sì, Umberto Ambrosoli dice di sì, da chi è stato dall'Osservatorio, invitato? Cioè un membro dell'Osservatorio ha detto era invitato, poi ho ricevuto una telefonata dall'ufficio di presenza della Regione, non è più gradita perché Umberto Ambrosoli ha criticato lei. Vediamo le cose, l'iniziativa è del Consiglio regionale e non è della Giunta, quindi non è mia. Io ho ricevuto l'invito dal Consiglio regionale una settimana fa, non c'era nessun nome né cognome di partecipanti, era spiegato che si sarebbero celebrate le vittime della mafia. Dopodiché so che ha parlato ieri uno del segretario, il Spreafico del Partito Democratico, ritengo che fosse in carico a lui l'organizzazione della vicenda. Dalle domande che ho fatto fare mi hanno detto che nessuno del Consiglio regionale, che era l'organo che aveva organizzato la celebrazione, aveva invitato Ambrosoli. Però guardi, Presidente, oggi ma questo osservatorio di cui parla non so, ne è francamente no, però io le ripeto sui giornali oggi, Iole Garuti, componente non politica dell'Osservatorio, dice oggi a Repubblica: eravamo tutti d'accordo sulla presenza di Umberto Ambrosoli, ma lunedì ho ricevuto una chiamata e mi hanno detto che Ambrosoli non era dall'ufficio del Consiglio di Presidenza. Pare più dalla Lega, pare fosse sgradito alla Lega. Questa signora faccia il nome e cognome e il Consiglio regionale investigherà, la responsabilità era sua, però queste denunce anonime Vabbè, queste denunce anonime, ripeto, non stanno né in cielo né in terra se non vengono portati i fatti. Visto che credo che manchi un paio di minuti alla fine della trasmissione. Sì. Allora vogliamo parlare anche di una serie di altre cose che stanno accadendo in Regione Lombardia e di cui regolarmente nessuno parla? Non so, vogliamo dire che Regione Lombardia è l'unica regione in Italia che sta distribuendo mezzo miliardo di euro alle proprie imprese, perché in questo momento di stretta del credito le imprese stanno soffocando. Siamo gli unici che abbiamo costruito uno strumento di questo tipo. Vogliamo dire che Regione Lombardia ha messo in piedi, sta realizzando una nuova struttura sanitaria come la città della salute, una città che metterà insieme l'istituto dei tumori, il BESTA, quindi le super eccellenze. Vogliamo dire che ieri siamo andati a Bruxelles a incontrare il Parlamento europeo, per la prima volta la Commissione europea verrà all'Expo di Milano. Volevo dire che l'Expo però di Presidente, io faccio le domande critiche. No, ma il mio compito è fare le domande un po' corrosive e critiche. Se informazione, e dovete tener conto di una cosa e dell'altra. Certamente i giornali parlano soltanto dei presunti aspetti negativi, ma qui la regione Lombardia, di cui stiamo parlando, è la regione meglio amministrata in Italia. Stiamo ottenendo dei risultati che nessun altro ottiene. I nostri cittadini sono soddisfatti. Lei sa benissimo che in tutta Italia uno che deve farsi curare per una malattia complicata viene a Milano, viene a Bergamo. Ma sulla sanità non c'è dubbio. La sua sanità che sia un'eccellenza, no, ma che sia un'eccellenza, questo sì. Questo consiglio regionale di corrotti, su via. Se questo esercito di corrotti è riuscito a realizzare queste eccellenze dalle altre parti, dove le regioni spendono molto di più e realizzano i servizi sanitari deficitari, cos'è? Sono tutti puliti e innocenti? Però faccia fare come flash, Presidente. Il Corriere della Sera, guardi, le cito una fonte che è il nostro principale pubblico ministero, ha scritto il Corriere della Sera che la corruzione e l'inefficienza amministrativa vanno a braccetto. Cioè, Corriere della Sera è il pubblico ministero. Corriere della Sera è il pubblico ministero. No, però Michele Salvati. Però me lo dica. Michele Salvati non è un pubblico ministero. Michele Salvati è una persona rispettabilissima sinistra che scrive giustamente che inefficienza amministrativa e corruzione vanno a braccetto. Qui da noi c'è efficienza amministrativa. Però me lo dica come flash, Formigoni, per chiudere. Lei esclude che, giusto per chiudere la vicenda Ambrosoli, non sia stato invitato il figlio di Ambrosoli perché ha criticato lei dicendo che dovrebbe azzerare la giunta? Allora, io escludo che uno dei miei abbia fatto questa cosa qui, tanto più che l'iniziativa non era mia, cioè non era della giunta. Perfetto. Era del consiglio regionale. Va bene, la ringrazio, Presidente. Grazie a Roberto Formigoni, Presidente della Lombardia. Ci fermiamo e poi andremo a capire cosa sta succedendo a Tolosa. È tornato lo spauracchio di Al Qaeda tra poco. 24 mattino. 8:39 minuti, è ancora asserragliato nel suo appartamento di Tolosa Mohamed Merah, autoproclamatosi affiliato ad Al Qaeda, colui che è sicuramente sospettato numero uno, si è anche autoaccusato dell'uccisione prima di alcuni paracadutisti e poi della strage orribile alla scuola ebraica di Tolosa, 3 bambini uccisi e un adulto ucciso. È ancora lì. Il ministro francese all'interno ha detto: non sappiamo neanche se sia vivo, perché durante la notte non abbiamo avuto contatti con lui, e ha detto ieri sera: voglio morire con le armi in pugno. Torna lo spauracchio, il terrore di Al Qaeda. Ne parliamo con l'onorevole eurodeputato Magdi Cristiano Allam, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Saluto anche Sergio Yahya, imam, vicepresidente della Coreis, la comunità religiosa islamica italiana, benvenuto e buongiorno anche a lei. Buongiorno anche a lei. Senta, Allam, lei oggi sul giornale firma un commento molto duro, l'inizio è così: sveglia Europa, siamo diventati terra di conquista degli integralisti estremisti e terroristi islamici con cittadinanza europea, non solo senza rendercene conto, ma addirittura aiutandoli e giustificandoli. Ecco, è davvero questo allarme così accorato, la linea giusta, onorevole Allam, oppure è un cane sciolto questo? No. Allora, intanto chiariamo che è un cittadino francese, un cittadino francese che è cresciuto in Francia, che è stato indottrinato nelle moschee della Francia, che ha svolto la sua pratica di terrorista in Afghanistan e in Pakistan, e che ha consumato l'atroce delitto in Francia. Chiariamo anche che si tratta solo della punta dell'iceberg. l'errore di molti analisti, tra cui Oliver Roy, che oggi ha rilasciato un'intervista all'Avvenire, sì, è quello di immaginare che questi episodi, dal momento che sono limitati, rappresenterebbero dei fatti isolati. Invece si tratta solo della punta dell'iceberg, dove il problema vero è l'iceberg. E l'iceberg è una rete incontenibile di moschee, di scuole coraniche, di enti assistenziali finanziari islamici, di corti sharaitiche, dove avviene una predicazione di odio, di violenza e di morte, e dove si mettono delle radici in Europa per un potere parallelo che finisce per creare queste punte estreme, ma come riflesso appunto dell'iceberg estremo, ecco, di una realtà. Io infatti che è quella che ci deve preoccupare. Ho l'intervista sotto gli occhi, sul Corriere della Sera l'ha rilasciata Oliver Roy, non so se anche su Avvenire. Io sul Corriere della Sera appunto parla di un caidismo fai da te, una sorta di lupo solitario. Lei contesta questa tesi, diciamo, della scheggia impazzita, e quindi per questo incontrollabile, nel senso che purtroppo non si possono controllare tutte le persone. È un'analisi superficiale che non tiene conto del fatto che chi opera con queste modalità estreme, facendo esplicito uso del terrorismo per massacrare il maggior numero possibile di quelli che indiscriminatamente vengono definiti nemici dell'Islam, opera sulla base di una legittimazione coranica e sulla base di quello che ha detto e ha fatto concretamente Maometto. Bisogna leggere il Corano, bisogna conoscere la storia di Maometto, che è stato uno che ha combattuto e ha ucciso e ha massacrato gli ebrei. Quindi questi terroristi islamici non fanno altro che emulare le gesta di Maometto e non fanno altro che corrispondere a quanto è prescritto nel Corano. Insomma, ecco, vorrei dall'imam Sergio Yahya un'analisi a partire da quello che ci ha detto l'onorevole Allam. Lei condivide questo timore, perché da una parte c'è il dovere dell'integrazione, dall'altra parte c'è anche il dovere da parte della società di controllare quello che avviene nelle predicazioni, per esempio, delle moschee. Lei condivide l'analisi molto, molto estrema dell'onorevole Allam? Ma a me sembra che, come lei ponga la domanda, già abbia una ottima risposta, nel senso che noi come musulmani europei e come persone che hanno studiato e cercato di vivere insieme a tutta la società e a tutto il pluralismo delle varie comunità religiose e anche delle varie culture, abbiamo il dovere di favorire quello che è un processo, sì, di integrazione naturale, direi, ecco, insomma, quindi di dialogo, però abbiamo anche il dovere, e qui invece siamo credo tutti e tre d'accordo, di proprio isolare, denunciare qualsiasi strumentalizzazione violenta e integralista, che sia della religione, che sia del patriottismo, che sia del nazionalismo, che sia di una ideologia, insomma, di qualsiasi cosa che poi alla fine vada a ledere il diritto e la dignità della vita umana e del sacro per chi ci crede. Quindi, tendenzialmente, come lei poneva la domanda, è sì integrazione, ma con grande attenzione per evitare che l'integralismo ne possa assumere o sfruttare il buonismo o la miopia o l'ingenuità di qualche analista che magari soltanto per evitare eccessi di fobie o di timori, diciamo, ha gettato un po' di acqua sul fuoco. Quindi anche secondo lei l'analisi di Oliver Roy è un po' poco approfondita su questo. Però onorevole Allam, vorrei chiederle come concretamente si può fare il controllo, che dovremmo fare, entrare in ogni moschea e controllare tutto ciò che viene detto? Sulla stampa leggevo per esempio che è nato negli Stati Uniti una sorta di dipartimento di polizia quasi semiclandestino che combatte la jihad fatta in casa, leggo il titolo, spiando i musulmani. È questo tipo di società che dobbiamo imbastire? Allora, chi come in America ha sperimentato l'11 settembre del 2001 ha compreso che se non si parte dall'inizio della filiera, che è appunto la predicazione d'odio che avviene nelle moschee e che culmina nell'attentato terroristico, noi non potremo mai estirpare la radice del terrorismo. Di qui la necessità di verificare quanto accade all'interno delle moschee, ma siamo in un ambito che è quello reattivo. Noi dobbiamo oggi invece porre delle basi, sì, affinché in partenza questo non accada, e queste basi non possono essere che un modello di integrazione dove noi chiariamo a tutti indistintamente, senza alcuna discriminazione sul piano religioso, sul piano etnico, sul piano culturale, che ci sono delle regole che valgono indistintamente per tutti, che ci sono dei valori non negoziabili a partire dalla sacralità della vita di tutti, compresi gli ebrei, i cristiani, compresi gli apostati, compresi gli infedeli, che c'è la dignità della persona che, sì, non può essere in alcun modo lesa, e la libertà di scelta, questo è fondamentale. Ma questo sì, ma uno questi principi li può sottoscrivere e poi diciamo non devono essere, no, devono lavorare essere fatti per altri scopi. No, devono essere fatti rispettare concretamente, ci deve essere la verifica e l'accertamento, e chi viola queste regole deve essere sanzionato, cosa che non accade, allora, né in Europa né in Occidente. Allora, vorrei chiedere all'imam Sergio Yahya un commento su anche la questione della sicurezza, e se quello che sta succedendo in Francia può riverberarsi poi in Italia su anche timori da parte della comunità islamica che ci siano maggiori controlli. Non dimentichiamo che solo il 15 marzo scorso un giovane marocchino di origine residente d'Italia da anni è stato fermato e, secondo le ipotesi di reato, puntava anche a colpire la sinagoga e la scuola ebraica di Milano. Quindi se dobbiamo credere a questo, non è che è poi molto distante la minaccia anche fisicamente e geograficamente. Infatti dice bene, perché in una settimana siamo passati, io ero con il magistrato D'Ambruoso e il presidente di una delle più nobili istituzioni ebraiche italiane, il B'nai B'rit, a fare la presentazione del suo libro, e era proprio il giorno nel quale era stato catturato questo sedicente musulmano che tentava o si divertiva nel cercare comunque di preparare un attentato contro la sinagoga di Milano. E quindi c'è un'azione preventiva che l'intelligence con le varie figure responsabili, anche io direi della società civile o delle comunità religiose, possono fare nel cercare di creare un argine preventivo per evitare che i degenerati o i folli del caso possano arrivare a fare quello. Ma attualmente purtroppo questo controllo c'è, o lei auspica che ci sia di più, o lei teme che ci possa essere di più? Ma io favorisco il fatto che ci sia una maggiore trasparenza e dialogo con le istituzioni, perché le varie comunità religiose e di conseguenza anche la mia possa avere degli imam che predichino in italiano e che sappiano cosa predicare e non facciano in nessun modo, non siano l'oggetto di manipolazioni appunto ideologiche o di propaganda eversiva. Quindi questo in effetti è qualcosa che noi stessi come musulmani italiani vogliamo che venga sancito, per evitare di essere collusi o non so come dire, confusi con quelli che invece vogliono fare una manovra di carattere oscuro, sì, e nocivo. Io tra l'altro su questo vorrei per un attimo tornare, onorevole Allam, lei di recente aveva lanciato un'iniziativa che non so se poi ha avuto seguito, lei prima ci ha detto bisogna leggere il Corano, e lei aveva scritto sul giornale: caro prefetto di Milano, intendo leggere il Corano, credo in Piazza del Duomo a Milano. Esatto. È così. Ma lo farà? Cioè, esatto. Ah, io intendo. O era una provocazione, onorevole? No, nessuna provocazione, è una proposta molto seria, perché sottolineo, fin tanto che noi non conosciamo quello che è scritto nel loro testo sacro, che a differenza dei Vangeli e della Torah viene considerata opera increata al pari di Dio, della stessa sostanza di Dio, dove quindi l'interpretazione non ha posto, fin quando noi non faremo ciò non capiremo quella che è la vera realtà dell'Islam. Io apprezzo le parole dell'amico Yahya Pallavicini nel suo tentativo di creare in Italia delle persone di fede musulmana che siano totalmente compatibili con le nostre leggi, le nostre regole e valori fondanti della società, però sottolineo che si tratta in questo caso sì di una minoranza, perché è una minoranza che estrapola quella che è l'integralità del Corano, l'integralità della figura di Maometto, da cui noi non possiamo prescindere, e soprattutto Alessandro, soprattutto noi non possiamo non tener conto del fatto che oggi siamo attorniati da regimi integralisti, estremisti islamici, dal Marocco allo Yemen, e che questa realtà ci assedia, e questo assedio l'abbiamo voluto noi, li abbiamo promossi noi, abbiamo commesso una follia fuori alle porte di casa nostra e ora la stiamo perpetuando dentro casa nostra. Ma quindi lo farà questa cosa, cioè questa iniziativa di leggere il Corano a Milano? Ma non è una provocazione. No, ma certo. È una corretta, un'azione corretta. Ma c'è già una data, perché non ho avuto un'autorizzazione ancora. Ha chiesto l'autorizzazione alla prefettura di Milano in attesa di capire. Non ho avanzato una richiesta ufficiale alla prefettura di Milano. Incontrerò il prefetto prossimamente e proporrà questa cosa. Grazie all'onorevole eurodeputato Magdi Cristiano Allam e a Sergio Yahya, imam a Milano, vicepresidente della Coreis. Ci fermiamo, seguiteci su Twitter @AlinoMilan @24Mattino. A domani.